Ma io non vedo nulla, disse Daisy guardandosi attorno appena entrata. Non senti nulla? Chiese la zia afferrando per il vestito Ted che si dirigeva verso un lato della stanza. Daisy sentì uno strano scoppiettio, poi un rumorino curioso come quello di una pentola che bollisse, suoni che venivano di dietro una tenda tesa davanti a un ampio sfondo di finestra. La bimba la tirò con furia, diede un grido di gioia e rimase statica a guardare. Che cosa? Ve la do a indovinare fra mille. Un largo sedile correva lungo i tre lati della finestra. Da una parte erano disposti ogni sorta di piccoli recipienti, padelle, pignatte, graticole, casseruole, dall'altra un servizietto da tavola e da tè, e nel terzo un fornello da cucina. Non di quelli di latta inservibili, ma un vero fornello di ferro, abbastanza grande per prepararvi i pasti di una numerosa famiglia di bambole affamate. Ma la cosa più bella era che un vero fuoco vi bruciava dentro, un vero vapore usciva dal beccuccio del bricco del tè e il coperchio della piccola caldaia ballava veramente una giga, tanto forte bolliva l'acqua. Uno dei vetri della finestra era stato tolto e sostituito da un foglio di latta con un buco per il piccolo tubo da cui usciva il fumo, così naturalmente che era un piacere vederlo. Accanto al fornello c'era la cassetta della legna e il recipiente del carbone. E sopra erano appesi un battipanni, una scopa, una granata. Sulla bassa tavola da gioco di Daisy era posata una piccola sporta per la spesa e sulla spalliera della seggiola erano distesi un grembiale bianco con la pettorina e una curiosa cuffietta. Il sole brillava come se si divertisse anche lui. Il fornello russava allegramente, la pentola fumava, i rami nuovi brillavano alle pareti, le belle porcellane erano disposte in circoli seducenti. E tutto l'insieme formava la più gaia e completa cucinetta che una bimba potesse desiderare. Dopo la sua prima esclamazione di sorpresa, Daisy era rimasta immobile sul posto, ma i suoi occhi correvano dall'uno all'altro di quegli oggetti affascinanti, illuminandosi di gioia finché si fermarono sul volto allegro della zia Jo. Allora la bimba le saltò al collo cercando di esprimere la sua gratitudine. Oh, zietta, ma è un gioco meraviglioso! Potrò cucinare lì sopra e invitare a pranzo e accendere un fuoco che bruci davvero. Quanto mi piace. Ma come ti è venuta questa idea? Beh, ho visto che ti divertivi a fare le ciambelle insieme con Asia, disse mamma Baer trattenendo Daisy che saltellava per la gioia. Sapevo che Asia non ti avrebbe lasciata troppo spesso pasticciare nella sua cucina e poi sarebbe stato pericoloso coi fornelli, quindi ho pensato di cercare un fornellino per te e di insegnarti a cucinare. Sarebbe stata una cosa divertente e utile nello stesso tempo. Così ho girato per i negozi di giocattoli, ma i fornelli più grandi costavano troppo e cominciavo a temere di dovervi rinunciare quando ho incontrato lo zio Teddy. Appena saputo che cosa volevo fare, si è offerto di aiutarmi, insistendo per comprare quanto c'era di meglio. Ho pensato di cercare un fornellino per il modo come cucinavo quando si era giovani. E ha detto che dovevo insegnare a Bess e ha continuato a comprare ogni sorta di cosette graziose per la mia scuola di cucina, come la chiamava. Che fortuna che tu l'abbia incontrato, disse Daisy. E mamma Jo ancora rideva al ricordo di quanto si era divertita con lo zio Teddy. Bisognerà che tu studi molto e impari a fare ogni sorta di cose perché dice che verrà spesso a prendere il tè e si ripromette di trovare della roba straordinariamente buona. È la più deliziosa, la più cara cucina del mondo e io preferisco questa specie di studio a qualsiasi altro. Potrò imparare a fare torte, focacce, pasticcini e ogni specie di dolci? Chiese Daisy, ballando attorno alla stanza con una casseruola in una mano e il piccolo attizzatoio nell'altra. Ogni cosa a suo tempo. Questo deve essere un gioco utile. Io ti aiuterò e tu sarai la mia cuoca. Ti dirò quello che devi fare e te ne insegnerò il modo. E tu imparerai davvero a cucinare in proporzioni ridotte. Io ti chiamerò Sally e dirò che sei una ragazza appena assunta in servizio, aggiunse la signora Jo, mettendosi al lavoro, mentre Teddy, seduto per terra, si succhiava un dito, contemplando la cucina come se fosse stata una creatura viva, la cui presenza lo interessava molto. Sarà una cosa deliziosa. Che cosa devo fare prima di tutto? Chiese Sally, alias Daisy, con un viso così felice e un'aria così volonterosa da far desiderare alla zia che tutte le nuove cuoche avessero un po' di quella grazia e di quell'amabilità. Vediamo, per prima cosa, mettiti questa cuffietta bianca e il grembiule. Io ho idee antiquate e voglio che la mia cuoca sia molto pulita. Sally cacciò i suoi capelli ricciuti dentro la cuffietta rotonda e si mise il grembiule senza brontolare, sebbene di solito non volesse saperne di pettorine. Ora metti tutto in ordine e lava le tazzine nuove, e anche quelle vecchie hanno bisogno di una risciacquata, perché l'ultima cuoca era famosa per lasciarle in cattivo stato dopo che aveva offerto il tè. La zia Jo parlava molto sul serio, ma Sally rideva, sapendo benissimo chi fosse la ragazza disordinata che lavava male le tazze. Si rimboccò le maniche e con un sospiro di soddisfazione cominciò a muoversi per la cucina, fermandosi ogni tanto incantata davanti al delizioso mattarello, al caro catino, alla svelta pepaiola. Su, Sally, ora prendi la sporta e va al mercato. Ecco qui la lista di quel che voglio per il pranzo, disse mamma Jo, dandole un pezzo di carta quando tutte le stoviglie furono ben sistemate. Dov'è il mercato? Chiese Daisy, che trovava il nuovo gioco sempre più interessante di minuto in minuto. Il mercato è Asia. Sally corse via e provocò un'altra ondata di emozione nella scuola, passando davanti alla porta nel suo nuovo costume e sussurrando ad Amy con viso raggiante: È un gioco meraviglioso! La vecchia Asia si divertiva non meno di lei e rise di cuore quando la bimba si precipitò in cucina con la cuffietta tutta di traverso, agitando la sporta con l'aria di una piccola cuoca pazza. La signora zia Jo ha bisogno di queste cose e devo averle subito, disse Daisy con aria di importanza. E vediamo un po', tesoro. 2 libbre di bracciole, patate, una zucca, mele, pane e burro. Beh, la carne non è ancora arrivata, appena arriva la manderò su. Il resto c'è tutto. Poi Asia involtò una patata, una mela, un pezzetto di zucca, un po' di burro e un panino e mise il tutto nella sporta, avvertendo Sally di guardarsi dal garzone del macellaio che qualche volta giocava dei brutti tiri. Chi è? Chiese Daisy, sperando che fosse Demi. Lo vedrai, fu tutto quanto rispose Asia. E Sally se ne andò tutta contenta, canterellando i versi di una poesiola da poco imparata. Mabel vassene in gran fretta, burro fresco nel cestino, una dolce focaccetta e un fiaschetto di buon vino. Metti tutto nella dispensa per ora, tranne la mela, ordinò la signora Jo alla cuoca quando fu di ritorno. Sotto lo scaffale di mezzo c'era un armadio che aperto rivelò nuove meraviglie. Una metà era evidentemente adibita ad uso di ripostiglio perché conteneva legna, carbone e fascinelle. L'altra metà era piena di vasetti, scatole e ogni specie di curiosi recipienti per tenervi piccole quantità di farina, di grano, di legumi, zucchero, sale e altre provviste. C'era un vaso di marmellata, una lattina di pan pepato, una bottiglietta d'acqua di Colonia piena di vino e una scatolina di tè. Ma la cosa più deliziosa erano 2 piccole terrine da bambole piene di latte fresco col suo strato di crema e un piccolo scrematoio pronto per essere adoperato. Davanti a quell'incantevole spettacolo, Daisy congiunse le mani e avrebbe voluto subito scremare il latte, ma la zia Jo disse: Ora no, avrai bisogno della crema per metterla sulla tua torta di mele a pranzo e non devi muoverla prima. Ci sarà davvero anche la torta? Esclamò Daisy, stentando a credere che una fortuna simile le fosse riservata. Sì, se il tuo forno funziona bene, ne avremo anzi 2, una di mele e una di fragole, disse la signora Jo, il cui interesse per il nuovo gioco non la cedeva a quello di Daisy. E dopo? Chiese Sally, impaziente di cominciare. Chiudi il tiraggio inferiore del fornello, perché il forno possa riscaldarsi. Poi lavati le mani e prendi la farina. Lo zucchero, il sale, il burro e la cannella. Guarda che lo spianatoio sia pulito e sboccia la tua mela. Daisy fece tutto con garbo e senza versare niente, cosa strana davvero per una così giovane cuoca. Veramente non so regolarmi nelle dosi per torte così piccole. Tiro a indovinare, ma se queste non riusciranno bene, tenteremo di nuovo, disse mamma Jo con aria perplessa ma molto divertita di quel piccolo problema. E dunque, Prendi questo po' di farina, mettici un piccolo di sale e poi impastala col burro, quanto ce ne sta in questo piattino. Ricordati che devi sempre mettere insieme prima gli ingredienti asciutti e poi quelli umidi, perché allora si mescolano meglio. So come si fa, ho visto Asia. Non devo anche imburrare la forma? Lei lo fa sempre per prima cosa, disse Daisy mentre impastava energicamente. Giustissimo. Mi par proprio che tu abbia il bernoccolo della cucina. Capisci tutto al volo, disse la zia Jo in tono di approvazione. Ora una spruzzatina di acqua fredda, quanto basta per inumidire la pasta. Poi spargi un po' di farina sullo spianatoio e spiana la pasta col mattarello. Sì, proprio così. Ora mettici qualche pezzetto di burro, arrotola e spiana di nuovo. Non bisogna che la nostra pasticceria sia troppo saporita, sennò le bambole stenteranno a digerire. Quell'idea fece ridere Daisy, che sparse abbondantemente il burro. Poi arrotolò e spianò la pasta col suo piccolo mattarello e quando la pasta fu pronta, la dispose nella forma. Vi affettò sopra la mela, la cosparse di una buona dose di zucchero e di cannella e poi, trattenendo il fiato per l'emozione, la coprì con un altro foglio di pasta. Avevo sempre voglia di tagliarle tutto attorno, ma Asia non me l'ha mai lasciato fare. Com'è bello ora sbrigarmi tutto da me, disse Daisy, mentre col coltellino andava ritagliando la pasta attorno alla piccola forma in bilico sulla sua mano. A tutte le cuoche, anche le migliori, qualche volta capitano delle disavventure. La prima toccò proprio allora a Sally, alias Daisy, perché il coltellino si muoveva così in fretta che la forma scivolò via e fece un bel salto per aria, deponendo la piccola torta capovolta sul pavimento. Sally cacciò uno strillo, la signora Jo rise e Teddy strisciò avanti con le manine tese e per un momento nella nuova cucina regnò una gran confusione. Beh, non si è rovesciata né spezzata perché avevo schiacciato forte gli orli. Non ha sofferto proprio nulla. Ora ci farò dei buchi e poi sarà pronta, disse Sally, raccogliendo il suo tesoro capovolto e ridandogli la sua forma, senza troppo preoccuparsi, da quella bambina che era, della polvere raccolta cadendo. Vedo che la mia nuova cuoca ha un buon carattere e questo mi conforta assai, osservò mamma Jo. Ora apri il barattolo della marmellata di fragole, riempi la torta e mettici sopra qualche striscia di pasta, come fa Asia. In mezzo ci voglio fare una D e tutto attorno dei ghirigori. Sarà così interessante quando li mangerò, disse Sally, caricando la sua torta di fregi e di ornamenti da fare invidia a un vero pasticcere. Ora la metto dentro, esclamò dopo aver piantato sulla rossa superficie l'ultima pallottola di pasta impiastricciata e con aria trionfante chiuse le due torte nel forno. Ora rimetti tutto a posto. Una brava cuoca non lascia mai i suoi utensili in disordine. Poi prepara il tuo pezzetto di zucca e le patate. Di patate ce n'è una sola, disse Sally, ridendo. Beh, fanne 4 pezzi, così entrerà nella piccola pentola e mettili nell'acqua fredda finché sia tempo di cuocerli. Anche la zucca? Quella no. Puliscila e tagliala e mettila a cuocere sul vapore sopra la pentola. Ci vuol più tempo, ma riesce più asciutta. A questo punto si sentì grattare all'uscio. Sally corse ad aprire e apparve Kit che portava in bocca un paniere coperto. Ecco il garzone del macellaio, esclamò Daisy, molto divertita da quell'idea, liberandolo del suo carico mentre il cane si leccava le labbra e aveva tutta l'aria di aspettare, evidentemente credendo di aver portato il proprio pranzo, come spesso faceva col suo padrone. Ma dovette ripartire deluso. E scese le scale abbaiando furibondo per sfogare il suo animo esacerbato. Nel paniere c'erano 2 pezzetti di carne, erano libre da bambole, una pera cotta, un pasticcino e un foglietto di carta su cui Asia aveva scarabocchiato per la colazione della signorina nel caso che la sua cucina non riuscisse bene. Non ho bisogno delle sue vecchie pere, né di nient'altro. La mia cucina riuscirà benissimo, io farò un pranzo magnifico. Vedrai se non è vero, esclamò Daisy indignata. Potranno servirci se verrà gente. È sempre bene avere qualcosa nella dispensa, disse la zia Jo, che aveva imparato questa verità a sue spese dopo una serie di terrori domestici. Ho fame, annunziò Teddy che dopo tanto cucinare pensava fosse tempo di mettere qualcosa sotto i denti. Ma la mamma gli dette il suo cestino da lavoro perché ci frugasse dentro, sperando così di tenerlo quieto finché il pranzo non fosse pronto, e si rimise all'opera. Metti al fuoco i legumi, apparecchia e tieni pronto un po' di carbone acceso per le bistecche. Che bellezza! Vedere le patate che bollivano nella piccola pignatta, tenere d'occhio il pezzetto di zucca che diventava così morbido sul vapore, aprire lo sportello del forno ogni 5 minuti per controllare a che punto erano le torte e infine, quando il carbone fu ardente, mettere le 2 bistecchine a cuocere su una gratella lunga un dito, rivoltandole tutta fiera con la forchetta. Le prime ad essere pronte furono le patate, ed era naturale perché avevano bollito disperatamente tutto quel tempo. Furono schiacciate con un piccolo pestello, vi fu aggiunto molto burro e niente sale, la cuoca se ne dimenticò nell'eccitazione del momento. Poi furono lisciate con un coltello, bagnato nel latte e poste in forno a colorirsi. Sally s'era lasciata così assorbire da queste ultime operazioni che dimenticò la sua pasticceria finché non aperse il forno per metterci le patate. Allora un gemito le sfuggì, perché le piccole torte, ahimè, erano carbonizzate. Oh, le mie torte, le mie care torte, sono rovinate! Gridò la povera Sally, torcendosi le manine sporche dinanzi alla rovina del suo lavoro. La torta di fragole era specialmente patetica, perché i fregi e le decorazioni si rizzavano da tutte le parti su dalla marmellata annerita, come le pareti e il camino di una casa dopo un incendio. Oh, povera me, non ho pensato a ricordarti di toglierle. È proprio il mio destino, disse la zia Jo, piena di rimorsi. Non piangere, cara, è stata colpa mia. Proveremo di nuovo dopo pranzo, eh? Aggiunse mentre un lacrimone scendeva dagli occhi di Sally, sfrigolando sulle rovine ardenti della torta. E altre lacrime sarebbero cadute se da una delle bistecchine non si fosse levata proprio allora una fiamma, attirando l'attenzione della cuoca e facendole dimenticare la pasticceria rovinata. Ora metti a scaldare il vassoio e i piatti e intanto schiaccia la zucca con burro, sale e un po' di pepe, disse la signora Jo, facendo fervidi voti in cuor suo perché non accadessero altri disastri. La svelta pepaiola consolò Sally, che preparò la sua zucca in grande stile. Il pranzo finì dunque per essere imbandito. Le 6 bambole furono messe a sedere, 3 per parte. Sally si mise a capotavola e Teddy all'altra estremità. Ne risultò uno spettacolo imponente, perché una delle bambole era in abito da ballo, un'altra in camicia da notte. Jerry, il bambolotto di stoffa, indossava il suo costume rosso da inverno, mentre Annabella, la cara bambolina senza naso, non aveva addosso che la sua pelle di capretto. Teddy, in funzione di padre della famiglia, si comportò molto bene, divorando allegramente tutto quanto gli fu offerto, senza trovare nulla da ridire. Daisy, raggiante, era la stanca, accaldata, ma ospitale padrona di casa che si può spesso vedere a tavole più grandi di quella, e ne faceva gli onori con un'aria di ingenua soddisfazione che è raro riscontrare altrove. La bistecca era così dura che i piccoli coltelli non vollero saperne di tagliarla. Le patate non bastarono per tutta la tavolata e il purè di zucca era molto grumoso, ma gli ospiti, educatissimi, non mostrarono di accorgersi di tali inezie e il padrone e la padrona di casa fecero piazza pulita con un appetito invidiabile. La gioia di scremare una mezzina colma di latte mitigò la pena delle torte perdute e il disprezzato pasticcino di Asia fu un vero tesoro come chiusa del banchetto. Questa è stata la più bella colazione della mia vita. Potrò ripeterla ogni giorno? Chiese Daisy mentre faceva i repulisti di quanto era avanzato. Potrei far cucina tutti i giorni dopo le lezioni, ma io preferisco che tu mangi i soliti piatti alle solite ore, contentandoti per merenda di un po' di pan pepato. Oggi non conta perché è stato il primo giorno, ma dobbiamo rispettare le regole. Questo pomeriggio, se ne hai voglia, potrai preparare qualcosa per il tè, disse la signora Jo, che si era goduta molto il pranzo, sebbene nessuno l'avesse invitata a parteciparvi. Lasciami fare delle frittelle di mele per Demi, gli piacciono tanto ed è così divertente rivoltarle e metterci in mezzo lo zucchero, gridò Daisy, asciugando teneramente una macchia gialla sul naso rotto di Annabella. che aveva rifiutato di mangiare la zucca, nonostante le insistenze della sua mammina, che la considerava efficace contro i lumatismi, disturbo del quale era naturale che soffrisse, dato il suo abbigliamento eccessivamente leggero. Ma se tu prepari dei buoni dolcetti per Demi, anche tutti gli altri ne vorranno e avrai troppo da fare. E se per questa volta invitassi lui solo a prendere il tè? Poi potrei prepararne anche per gli altri se staranno buoni, propose Daisy, colta da un'improvvisa ispirazione. Ma questa è una splendida idea, fiorellino mio. I tuoi inviti saranno la ricompensa per i ragazzi migliori e dubito che ce ne sia uno solo che non preferisca un buon bocconcino a ogni altra cosa. Se i piccoli uomini sono come i grandi, la buona cucina toccherà i loro cuori e calmerà deliziosamente i loro nervi, aggiunse la zia Jo con un cenno significativo del capo verso la porta, dalla cui soglia papà Bayer sorvegliava la scena con l'aria di divertirsi un mondo. Questa frecciata è per me, o pungentissima donna? E io l'accetto perché corrisponde al vero. Ma se ti avessi sposata per la tua abilità come cuoca, amor mio, mi sarei nutrito ben male tutti questi anni, rispose il professore ridendo e palleggiando Teddy, rosso come un gambero per gli sforzi di descrivere il banchetto cui aveva partecipato. Daisy, tutta orgogliosa, gli fece vedere la sua cucina e gli promise imprudentemente tante frittelle di mele quante ne potrebbe mangiare. E stavano appunto dicendogli del nuovo premio progettato quando i ragazzi, capeggiati da Demi, irruppero nella stanza annusando l'aria come un branco di cani affamati, perché la scuola era finita, il pranzo non era pronto e l'odore delle bistecche di Daisy li aveva fatti accorrere sul luogo. Mai si era vista una piccola damigella più orgogliosa di Sally, Daisy, mentre mostrava i suoi tesori e diceva ai ragazzi quello che li attendeva. Qualcuno veramente ridacchiò all'idea che ella fosse capace di cucinare qualcosa di mangiabile, ma il cuore di Staffy fu subito conquistato. Nat ed Amy dimostrarono ferma fiducia nella sua abilità e gli altri dissero che si riservavano di vedere quel che sarebbe accaduto. Tutti però ammirarono l'impianto ed esaminarono con vivo interesse il fornello. Demi offerse di comprare subito la caldaia per servirsene in una macchina a vapore che stava costruendo. E Ned dichiarò che la più bella e la più grande delle casseruole era proprio quello che ci voleva per fondervi il piombo quando fabbricava palle, accette e cose simili. Daisy fu così spaventata da quelle proposte che Mamma Jo, seduta stante, promulgò una legge secondo la quale nessun ragazzo poteva toccare o usare il sacro fornello e neppure avvicinarvisi troppo senza un permesso speciale della proprietaria. E questo ne aumentò immensamente il valore agli occhi dei giovani signori, molto più che ogni violazione della legge farebbe perdere il diritto alle ghiottonerie promesse ai migliori. Ma a questo punto suonò la campana e tutti scesero a pranzo. Pranzo particolarmente animato perché ognuno dei ragazzi dette a Daisy una lista delle cose che ella avrebbe dovuto preparargli quando se le fosse meritate, e la bimba, che aveva una fede illimitata nel suo fornello, promise tutto purché la zia Jo le insegnasse, il che preoccupò alquanto la signora, dato che alcuni dei piatti richiesti erano troppo difficili per lei, come le torte nuziali, il marzapane, senza parlare poi della minestra di cavoli con le aringhe e le ciliegie proposta da papà Baer come suo piatto prediletto, che la ridusse subito alla disperazione perché la cucina tedesca era al di sopra delle sue forze. Appena finito il pranzo, Daisy avrebbe voluto ricominciare, ma le fu permesso solo di fare pulizia, riempire il brico del tè e lavarsi il grembiule, ridotto già in uno stato giustificabile solo se avesse preparato un banchetto natalizio. Poi la mandarono fuori a giocare fino alle 5, perché lo zio Fritz sosteneva che la troppa applicazione, sia pure attorno ai fornelli, era dannosa alle giovani menti e ai giovani corpi. La zia Jo sapeva per lunga esperienza come fan presto i nuovi giocattoli a perdere il loro incanto se non se ne fa un uso discreto. Quel pomeriggio tutti furono molto amabili con Daisy. Tommy le promise i primi frutti del suo poderetto, sebbene per il momento non vi si vedesse che della gramigna. Nat le offerse di rifornirla di legna gratis. Staffy era in adorazione davanti a lei. Ned si mise subito all'opera per fabbricarle un piccolo frigorifero ed Amy, con una puntualità veramente encomiabile, la scortò fino alla stanza dei bambini allo scoccare delle 5. Era ancora presto per cominciare, ma egli la pregò con tale fervore di lasciarlo entrare ad aiutarla che gli furono concessi dei privilegi che pochi estranei sogliono godere: accendere il fuoco, andare a fare le commissioni e sorvegliare con grande interesse la cottura della sua cena. Mamma Jo dirigeva il lavoro, andando e venendo, perché era occupatissima a mettere le tendine in tutta la casa. Chiedi ad Asia una tazza di crema acida, così i tuoi pasticcini riusciranno soffici, senza bisogno di troppa soda, che non mi piace. Fu il suo primo ordine. Demi si precipitò giù per le scale e tornò con la crema, ma con una smorfia di disgusto sul viso perché l'aveva assaggiata lungo la strada e trovata così acida da prevedere che i pasticcini riuscirebbero immangiabili. Mamma Jo colse l'occasione per spiegare brevemente dall'alto dello scaleo le proprietà chimiche della soda. Daisy non l'ascoltava, mentre Demi dimostrò di aver compreso con una risposta breve ma esauriente. Già, capisco, la soda rende dolci le cose acide e la sua schiuma le rende soffici. Fammi vedere come fai, Daisy. Riempi questa scodella di farina fin quasi all'orlo e aggiungici un pizzico di sale, continuò Mamma Jo. Povera me, mi pare che ci voglia sale dappertutto, disse Daisy Sally, che ne aveva abbastanza di aprire la scatoletta delle pillole che lo conteneva. Il sale è come il buon umore, e un pizzico di esso rende più buona quasi ogni cosa, disse lo zio Fritz, che passava con un martello in mano per piantare qualche chiodo cui appendere la piccola batteria da cucina di Sally. Tu non sei invitato per il tè, ma sarò buona e ti darò qualche pasticcino, disse Daisy, alzando il visetto infarinato per ringraziarlo con un bacio. Fritz, tu non devi interrompere la mia scuola di cucina, o io verrò a far della morale nella tua ora di latino. Ti piacerebbe? Disse la signora Jo, buttandogli sulla testa una tendina di cretonne. Moltissimo! Prova e vedrai! E l'amabile papà Baer se ne andò, canterellando, a piantare i suoi chiodi come un mastodontico picchio. Metti la soda nella crema. E quando fa la schiuma, come dice Demi, mescolala alla farina, sbattendola con quanta forza hai. Prepara la padella ben imburrata e calda e poi comincia a friggere finché non torno. E la zia Jo scomparve. Vi assicuro che fu un bello sbattere, un bel picchiare. La pasta quasi spumeggiava e quando Daisy ne versò un poco nella padella si gonfiò come per incanto a formare una soffice frittella che fece venire l'acquolina in bocca a Demi. È vero che rimase attaccata al fondo e bruciò perché Daisy aveva dimenticato il burro, ma dopo quel primo insuccesso tutto andò a gonfie vele e sei splendide frittelline furono disposte sane e salve sopra un piatto. Invece dello zucchero io preferirei lo sciroppo d'acero, disse Demi dalla poltrona dove si era accomodato dopo aver preparato la tavola in modo nuovo e originale. Allora vallo a chiedere ad Asia, rispose Daisy passando nel bagno a lavarsi le mani. Ma nella stanza, momentaneamente vuota, accadde qualcosa di terribile. Bisogna sapere che Kit era rimasto offeso tutto il giorno perché nessuno lo aveva ricompensato di aver portata fedelmente la carne. Non già che fosse un cattivo cane, ma aveva anche lui i suoi piccoli difetti e non sempre sapeva resistere alla tentazione. Passando per caso proprio in quel momento, sentì l'odore delle frittelle, le vide incustodite sul basso tavolino e senza riflettere alle conseguenze se le mangiò tutte e sei in un boccone. Sono però lieta di assicurarvi che erano bollenti e lo scottarono in modo tale che non poté reprimere un guaito di dolore. Daisy lo udì, accorse, vide il piatto vuoto e la punta di una coda gialla che scompariva sotto il letto. L'afferrò senza dire una parola, tirò fuori il ladro, lo scosse ben bene finché non lasciò penzolare le orecchie avvilito, poi lo chiuse nel ripostiglio, dove passò una serata solitaria in mezzo al carbone. Rinfrancata dalla parte che Demi prese alla sua pena, Daisy preparò un'altra scodella di pasta e fece una dozzina di frittelle, riuscite anche meglio delle prime. Lo zio Fritz, dopo averne mangiate due, mandò su a dire che non ne aveva mai gustate di migliori e tutti i ragazzi dalla tavola del pian di sotto invidiarono Demi, che banchettava frittelle al pian di sopra. Fu una cenetta davvero deliziosa, perché il coperchio della piccola teiera cadde soltanto 3 volte e il boccale del latte si rovesciò una volta sola. Le frittelle galleggiavano nello sciroppo e i crostini avevano un piacevolissimo odore di bistecca, dato che la cuoca si era servita della gratella per abbrustolire il pane. Demi dimenticò la filosofia e si rimpinzò come un qualsiasi volgarissimo ragazzo, mentre Daisy progettava sontuosi banchetti e le bambole li osservavano sorridendo affabilmente. «Ebbene, cari, vi siete divertiti?» chiese Mamma Jo arrivando con Teddy inerpicato sulla sua spalla. «Tanto, tanto! Io tornerò presto!» rispose Demi con enfasi. «A giudicare dalla tavola, temo che abbiate mangiato troppo!» «No! Io ho mangiato soltanto 15 frittelle ed erano piccolissime!» protestò Demi, che aveva dato molto da fare alla sorellina per riempirgli il piatto. «Non gli faranno male, erano così buone!» disse Daisy con un tale ameno miscuglio di tenerezza materna e orgoglio di padroncina di casa, che la zia Jo dovette sorridere mentre diceva: «Beh, tutto sommato il nuovo gioco ha avuto successo, no?» «A me piace», dichiarò Demi, come se la sua approvazione avesse il valore decisivo. «È il più bel gioco che sia mai esistito», gridò Daisy, stringendo fra le braccia il piccolo catino nel quale si proponeva di lavare le tazzine. «Vorrei che tutti potessero possedere un bel fornellino da cucina come il mio», aggiunse guardandolo con affetto. «Questo gioco dovrebbe avere un nome», disse Demi gravemente, leccandosi sulle labbra le ultime tracce di sciroppo. «Ma ce l'ha?» «Oh, e quale?» chiesero i due bimbi incuriositi. «Bene, potremmo chiamarlo il gioco dei pentolini». E zia Jo si ritirò, soddisfatta del successo della sua ultima gherminella, per trattenere un raggio di sole.